Eleonora Danco, ben ritrovata. Ben ritrovati, Radio Onda Rossa, grande. Allora, con te per parlare del tuo nuovo spettacolo Deversivo dal 19 al 29 al Teatro India qui a Roma. Come intanto lo descriveresti, Eleonora? Due indiani su una fotocopia. Questo è un omaggio a te. Sì. Allora, no, lo definirei, guarda, questo spettacolo è molto complesso e racchiude tante cose. Diciamo che, cioè, ci sono, racchiude tante cose, diversi linguaggi. Sì. Diciamo che i due, insomma, Roma e il teatro, cioè è la storia di una performer, anche se è una storia trattata attraverso vari aspetti di questo personaggio. Comunque è una performer che cerca spazi, luoghi di teatro indipendente, che è anche un'autrice, che è anche una regista, e che è in cerca di luoghi, di spazi, quindi il suo confronto con i produttori, il suo confronto con l'istituzione e il suo confronto anche con se stessa, con la lotta sia ai no che ci vengono dati e sia con se stessi. E tutto questo è tutto volante sopra un tappeto che è Roma, un tappeto volante che a sua volta sorvola una città, che a sua volta sorvola, capito, fantasmi, luoghi, immagini, immagini della città, cioè è riportato attraverso una scrittura molto di immagini. Ok. Senti, quanto immagino che ci sia molto di autobiografico anche. Guarda, è una domanda trabocchetto, nel senso che ho fatto un grossissimo lavoro sul testo. Okay. Perché non avevo nessuna intenzione di scrivere un atto unico, il Teatro di Roma me lo ha chiesto, hanno voluto produrlo, ci hanno creduto e adesso sono molto contenta, ma è stato un grande travaglio per me questo testo, perché ho scritto, come sai, diversi atti unici con un personaggio solo che parla, anche se sì, il mio teatro è molto fisico e performativo, però proprio non riuscivo a essere sincera, e quello che ho cercato di fare, sincera rispetto alla scrittura, e quindi mi sono posta molte domande in realtà mentre scrivevo, e ho buttato tante versioni altrettanto interessanti, ma alla fine sono planata su quella definitiva, che è quella che farò ad India, proprio sul rapporto con che cos'è la drammaturgia di un personaggio che parla da solo in scena, e cos'è una trama, e come la posso trattare, e come posso arrivare a parlare attraverso dei flash, perché è uno spettacolo tutto a flash, anche se dello stesso personaggio e dei suoi vari aspetti, e quindi attraverso questi flash arrivare a porre la vita, cioè, in realtà al di là della visione personale, no, di dire magari sì, ho preso delle cose da me, ma anche da tanti miei colleghi, da tante persone che fanno questo lavoro e che sento cose che sento dire, racconti che ho sentito, ci sono tante cose che possono riguardare il teatro, ma anche le persone che fanno dei lavori, diciamo, più esposti e più al limite, insomma, che l'indipendenza e il fatto di scontrarsi poi invece con magari una burocrazia, un'istituzione che non è mai competitiva. Sì, non ti induce mai a competere a un livello alto, ma casomai disperde le energie molto spesso degli altri. Senti, per come l'hai vissuta, com'è la situazione per quanto riguarda l'arte performativa oggi a Roma, ma non solo? Guarda, questo lo devi chiedere a Franceschini, io vabbè, io non posso risponderti in maniera così completa, perché sono anche diciamo pigro, cioè non ho una visione completa di quello che succede in Italia o a Roma, così completa. Il teatro è una cosa che puoi fare, diciamocelo, anche veramente con 10 euro, no? Se prendi un garage, fai una cosa, se è interessante la gente alla fine ci viene. Non è tanto quello, è un discorso di prospettiva, è un discorso di come vedere in anticipo. Non ci sono, ecco, diciamo che loro non competono ad un livello alto, no? Per cui magari sarebbe pure bello se ci fossero delle sale prove in giro per Roma, dove le compagnie indipendenti, perché poi ci sono, al di là dell'arte e dei paroloni, ci sono le cose con cui ti scontri, cioè fare un lavoro creativo, teatrale, è pari un po' alla ricerca scientifica, se vuoi ottenere dei risultati comunque originali, no? Non è che vengono così, non è casuale, c'è un lavoro dietro e questo lavoro non è riconosciuto in qualche modo. Perché? Perché non ci sono degli spazi dove magari, allora, mettere anche delle sale prove dove una compagnia paga anche un prezzo simbolico di 2 euro, no? E stai a rotazione, ecco, questo senso non lo comprendono, capito? Non c'è questo riconoscimento da parte delle istituzioni per dei lavori che sono difficili, dove gli artisti si assumono tutte le responsabilità, anche del fallimento e anche proprio di mettersi in discussione. Mm-hmm. Per me l'istituzione non ha mai creato talenti. E non lo farà mai, perché comunque un'istituzione che ti crea, tu gli devi qualcosa, quindi certo. Non sarai mai veramente beffardo e sincero e non prenderai mai in giro la realtà e te stesso, no? Sì. Quindi è sempre meglio rimanere esterni, però almeno assumersi la responsabilità di capire che si può competere molto di più perché le energie ci sono. Sì, sì, sì. Senti Eleonora, una tenitura lunga che per te è anche un'anomalia, come ti sei rapportata a questo elemento? Ma che anomalia? Beh. No, io sono stata in scena anche tante volte, mi ricordo all'Ambra Iovinelli con Me voglio salvare nessuno ci guarda, 4 settimane ad India, 10 anni fa sono stata 4 settimane con Ero Purissima. E allora, okay. Diciamo che negli ultimi anni ho seguito di più sicuramente il cinema, il mio film, certo. E poi era così faticoso autoprodursi che alla fine, insomma, era sempre, capito, per fare 2 cose investivi 30.000 per non guadagnarci praticamente niente. Ma non è una questione di lamentela, è una questione di come sono organizzate le cose. Ma questo personaggio, mm-hmm, assolutamente, cioè, abbiamo impostato l'intervista in un modo, forse, che vorrei chiarire questo, che il personaggio non punta mai il dito verso niente. Okay. È la vita di un performer, è la vita anche di un regista, cioè la vita, sono i flash anche di un regista che in realtà sta dirigendo questa la vita del performer, e poi c'è lo scrittore che ogni tanto appare, che è il personaggio, diciamo, più isolato, drammatico, che fa tutto, invece descriva, va a mangiare i gelati, cammina via la Pigana, diciamo, sta in giro per San Lorenzo. In questo senso ho preso, dato che mi sono ispirata al pittore Rauschenberg, no? E Rauschenberg dice questa frase molto bella, tra le tante che io mi sono ispirata alla sua opera, però lui a un certo punto dice: l'unico aspetto del mio lavoro che è rimasto invariato è la tendenza a trarre energia e ispirazione dalla vita che conduco e dal luogo in cui mi trovo, nell'istante presente, piuttosto che ritirarmi in un altro tempo, in un sogno o in un ideale. Allora io quest'estate, soprattutto la parte dello scrittore, l'ho scritta con questo chiodo fisso, cioè di presente del personaggio, dello scrittore, usare solo il suo stato emotivo in quel momento rispetto a quello che stava facendo, e trattando però, tu, come diciamo, lo scenario dalla vita che vedevo, capito? Quindi in quel momento vedevo cosa potevo prendere invece di andare a prendere massimi sistemi, mandavo a Pia i San Pietrini di via La Bicana. Porta Maggiore, quelli scendete, capolini, ascendete, rimortarci vostro sulle 10 di sera e ci lasciate nell'enorme pampa, nell'enorme biscotto Plasmon che Porta Maggiore, quei brasiliani al cellulare che gridano da un binario all'altro, alle 10 di sera in quell'innesto tra vita e scatarro, tra case che si illumineranno al tuo ingresso e notti sotto i ponti, le persone non si parlano, e poi racconta appunto che arriva il verme elettrico, il verme verde, il bruco elettrico che sarebbe il 3. Quindi mischiato alla vita poi del performer, dello scrittore, c'è anche Roma, capito, con questi flash che però vagano appunto, passano appunto dalla periferia, da Porta Maggiore, così, a Castel Sant'Angelo, e però poi appunto ci sono anche i rapporti con i produttori, c'è un continuo incontrare questi produttori, ma non li giudico mai, cioè si vede il personaggio che va a parlare col produttore e poi stacco primo piano sul produttore che la riceve. Okay. Per cui uno è vestito da Pulcinella e salta tra i tavoli di Piazza Navona cantando Funiculì Funicolà, e poi gli dà un sacco di sole. Un altro, capito, che sembra un pazzo perso in un teatro che gli recita Shakespeare, mentre, capito, lei va a chiedere un lavoro e lui si mette a fare, insomma, c'è questo rapporto di un po' di, se vuoi, di presa in giro e di è di realtà, ma non è nessuno di preciso, sono dei simboli che potrebbero essere anche appunto l'organizzazione politica, però non è un testo, assolutamente non è un testo politico. Ok, va bene Eleonora, allora ricordiamo l'appuntamento con Deversivo dal 19 al 29 qui a Roma, Teatro India, ci vediamo a teatro. Grande, verrai a vederlo? Direi di sì. Ah, va bene, grande Federico, allora a presto, ciao, okay, grazie, ciao. Grazie a tutti, venite tutti, ci stanno gli sconti a 8 euro, ci stanno le promozioni, potete vedere in rete. Ok. E quindi è un teatro accessibile a tutti, tranne a me, mi faranno entrare prima, spero. Vabbè, ciao, ciao, ciao, no, grandi, ciao. Ciao, ciao.